sole più la U è tabù. Ho capito. Va bene. Adesso mi stasera la compro e la provo il terrazzo. Se non va bene il terrazzo, sabato che viene non ti prendere i pegni, che saremo sul tetto la piazza. Vito, sto dicendo che papà è nato il terrazzino, piazzata. Capito? Una volta che la prendi, poi la cazzata piazzarla, perché vuole... tutti i siti vogliono piazzati, vogliono abitati, capito? Poi all'interno della terra ci va passato il cavo, da una parte ci va la massa, dall'altra parte ci va il positivo. Ma non c'è mai spinotto, Popo? No, nessuno spinotto. Ci sono due gancetti all'interno dell'alluminio, uno va la massa, nell'altro va il positivo, e basta. Positivo, e allora va bene, dai. Pensavo più difficile, no, ma se così già va bene. E la fesseria, una volta che lo vedi, che ti faccio vedere come si piazza con l'antenna, se puoi trovare quanti ne vuoi, capito? Prendono bene, costa una cazzata e ti puoi fare anche un bel po' di soldini. Se qualcuno ti chiama, non fai altro che piazzarla, è una fesseria, e ti fai soldi. Se così stasera mi sono lei che uso soldi adesso in tasca a portata di mano, ma come scende alle 50 prendo, guarda, la compro. No, mi sono tre palle, che cazzo, devo vedermi Formula 1, oggi c'è la Formula 1, adesso ho dovuto andare a casa mio papà a vederla, perché qua non si vede mai niente. Ne compro una, intanto il paletto ce l'ho già piazzato, attacco su quel piano, su quel paletto l'ho piazzato, poi vediamo un po'. E vabbè, la prendi, non c'è problema. Se vuoi provare stasera, tu non ce ne stai, passi qui due minuti, poi vi comprate almeno un po' di cavo, perché ci va infilato il cavo all'interno, quindi mobiliati 10-15 metri di cavetto, e così si è a posto. Ah, perché non lo posso mettere? Ce la sto mettendo al terrazzo? Se lo metti in terrazzo, per mostrare qui il cavetto, io devo portare il cavo dentro l'antenna, all'interno dell'antenna. Quindi una volta che te la piazzo, la roba è direttamente già pronta con il cavetto all'interno, poi non fai altro che andare a casa tua, la piazza del paletto e fai appuntamento, la ripetito e per la ricerca. Quindi ti 15 metri di cavo, non so, con 20 metri, tanto siamo per la discesa. Ti faccio da dove già piazzata e tutto, almeno se non è nessun problema. Fatti la misurazione di quanti cavo ci hai messo dal tetto a casa tua e poi non ce la stanno. No, io mi riferisco a piazzarla lì adesso nel terrazzo. Il cavo devi passarlo là dentro per forza, ci vuole proprio uno spezzone devi fare. Se no come l'agganci, perché il cavo va agganciato direttamente all'antenna, capito? Non c'ha spinotto, non c'ha niente, va solo agganciato il cavo dentro questo alluminio qui, da una parte ci va la calza e dall'altra parte il polo caldo, capito? Poi il cavo va dentro all'antenna, passa. Beh, io ce l'ho, c'è un po' di cavo in più scemi, o a dove? Ah, se c'è la problema ce ne stanno. Capito, cioè a me mi basta solo... svolgere la calza e mettere un po' caldo, ecco tutto qua. Vabbè, allora se qui c'è il cavo in più, problemi ce ne stanno. Sì, arrivare alla... io quello che ho pensato, il cavo arriva al paletto dove va attaccata l'antenna, capito? C'è il cavo, allora non è che devo comprare il cavo nuovo. Vabbè, non ci sono problemi. Io avevo capito di usare stasera l'antenna, così la provavi al limite, la agganciavi alla punta al limite a IT di 2 secondi, così ti guardavi come dovevi guardare stasera in un televisore, e facevi una specie di soddisfazione, poi su l'avevamo aggiunto con l'altro cavo di discesa. Tu stai dicendo piazzandolo dalla parte del polo. Dato che senza antenna è la perfetta, l'antenna è veramente piazzata lì adesso, cioè la veramente piazzata con lo spezzone. Questo lo facevo io, altro metterci un maschio e una femmina in un cavo là, l'altro avete fatto la giuntura. Tutto lì. Ah, ho capito, ho capito. E adesso vediamo, io la piazzo su quel paletto che c'è già all'internato. Se in caso dovesse funzionare, io lascio tutte le cose come stanno. Sabato ci diamo l'appuntamento, salgo io in macchina, ti prendo e lo piazziamo, capito? Vabbè, d'accordo, io sono qua. Se vado poco, se prendila, poi se hai difficoltà per farla, vieni 5 minuti qui, te la metti alla piazza e poi te la porti giù, li attratta. Così ho parlato per casa tua, installarla e provi. Sì, in casa, da lì mi devo andare a poco, avevo difficoltà a piazzarla, salgo a casa tua, ve la piazza e poi io la installo direttamente, capito? D'accordo, rimaniamo d'accordo così. D'accordo, poi ci sentiamo in radio al limite. Se sei in radio poi ti faccio chiamare, come a te che ho problemi e sto salendo, capito? Va bene, no problem. Senti, tu sei a casa, Sono a casa stasera, sono a casa, non mi muovo. Cavolo, su 16 sempre perché è meglio fare chiamata su questo canale. E adesso su 16. Cavarocci, Cavarocci. Ascolta, uno chiede, ma che cassette hai tu, Antonio? Mi vendi di quelle che hai? No, non le vendo quelle, no. No, lo guardate a me. Capito, non ho visto mancuna di quelle cassette ancora. Ho preso tutto in blocco, però avevamo regalato in blocco che era morto il padrone. Mi ha detto la moglie se ne voleva, questo c'è da buttare la mambetta, e poi la mette tutte. Io le ho prese, ho detto, non ho visto mancuna ancora. Allora vado, lo tengo qua. Ma te ne avevi cassette a tu? Cassette non avevo mancuna io, addirittura. C'è un direttore con una cassetta basta, poi quella lì mi ha regalato tutto quello che c'erano, un centinaio, 120 cassette, penso che sia. Le avevo tutte provate a casa, le avessi tutte esposte così. Però non ne ho visto neanche una ancora di film, qualcuno. Porca miseria, non te fai qualche domanda, nessuno te lo fai. No, ma lo lascio come esposizione, poi mano a mano, alla una me le guardo. È un peccato lasciare così. Ma c'hai che tipo di film c'hai, attore? Sì, film d'azione sono. Ce ne sono parecchi film belli. Cappa, no, ce sono belli quei film. Abbiamo provato una per se funzionavano le cassette, sono già appendito, gli altri invece funzionano bene. Non ci hanno fallito, quindi si vedono chiaro, non ci hanno quell'effetto verde. No, a me piacciono vedere i film. E invece qualche volta mi vuoi prestare qualcuno, vedo. Sì, qualche volta te ne presto qualcuna, e voi già non ce ne so. Cappa di rocci. Va. E così. E allora sei a casa, poi dai, sei a casa, stai facendo un bravo uomo, così. Che bravo uomo. Non sono io perché avevo pigliato freddo l'altro giorno. Oggi sono andato a casa, sono in campagna a fine di lavoro. Adesso io definisco tutto e così non ce la potrei scegliere a girarmi la balla a quel cazzo di campagna. C'è una roba di piena io. Beh, ci credo. E la campagna vuole tenuta, non è così facile, vuole tenuta, e io, non è così, no? Lo so che vuole tenuta. E l'auto è balla, è lì buttato. Tutti i giorni, taglia, poi arriva un colpo di acqua e tu devi nuovo come prima. lo so. Purtroppo, purtroppo è così. Ti volevo chiedere una cosa, Antonio. Se io dovessi, per esempio, se facevo un esempio, modulare l'arrivo l'87, no? E voglio cambiare la concessione dal Mobico a 87. arrivato. Non puoi farlo. Sembrava troppo facile, sarebbe. Ci vuole il coso di omologazione dietro. Non ho omologato quell'apparecchio. Oh, ho capito. Caspettina. Mannaggia, io pensavo si potesse fare. No, no, no. Noi prima sono tutti non omologati. Se andiamo a controllare bene, bene, ma siccome c'è scritto dietro, c'è una tavoletta con scritto omologazione, numero, proprio, eccetera, eccetera, è omologato. Invece adesso gli apparecchi nuovi non c'è più quella tavoletta, c'è scritto solamente normativa, c'è, basta, non c'è scritto altro, non c'è scritto altro. Hanno l'occhio che ti buschi una di quegli adesivi di qualche apparecchio vecchio, di quelli nuovi ci metti uno di quegli adesivi dietro. Non la fai omologato tu. E ma che devo scoprirsi? Se c'è una controllata di se ti vedi voi anche prendi chi aspettano mi ti qui. Siamo tutti con 200 canali, chi ha 40 è un bambino, già lo sai. È vero, è vero. Aspetti, vabbè, dai, pazienza. Comunque vuol dire a parte se non sono nuovi. Ne hanno una cellina che per esempio nuovo sono più di 40 canali. Guarda, la salvatura è 400 di canali, sono tutti non omologati, capito? C'è la parace dalle voci, no? È come quando tu ti pigli un coso, una moto, 50, lì tu le fatture, non le puoi più omologare, 50, già lo sai, no? Sì, sì, sì. Così anche con le minicar, solo che adesso le minicar ti aspettano subito, adesso quando la compri devi cancellare così com'è, se no ti sequestrano il mezzo e passi casini, perché adesso li controllano, le compra i quattro deficienti che si mettono già a fare le gare, ci passano tutti. È vero, è vero, è vero, purtroppo così. Oh, vabbè, io sono del parere, se la casa torna così, bisogna lasciarlo così. Ehi, vabbè. Se la cosa trova così la roba e ti dà il coso per fargli la modifica, è logico che più forte di te che la fai modificare, no? Beh, in effetti è vero, ti spinge sempre per la modifica e cosa, è purtroppo così. È come ricevito digitali, il giorno allora che le fabbriche vengono ricevitori li puoi modificare per poter vedere con la carta tutti i programmi, vedrai che tutti quelli che se la comprano partiranno su internet e cominciano a creare carte. È vero. Non ti ricordi quando c'era la TV stream, tutti andavano su internet a clonare le carte, andavano a fusare per essere interstampati già pronti con coso, quindi libro di tutto. Come si dice, c'è uscito l'inganno. Fatto oggi c'è l'inganno dietro sempre. Kappa. Purtroppo il gas si usa. Era già. Ma adesso una volta che lascia fare un po' di casino per le minicar, fra 5-6 anni stai tranquillo che lasciano tutti quanti le modificano, non preoccuparti. Anche perché adesso sono leggere, quindi imporranno alle fabbriche di mettergli qualche peso per forza, se no pigliano il volo con le auto. Una volta modificate la 90, quando lo fai la curva le vedi tutte in terra. Quello è vero. Sì, più che altro la mette a fesseria questa questione del. Perché se tu sei in una discesa e ti trovi una curva di colpo non fai e vai a fare, sei tranquillo che capoti lo stesso, anche se fa 40 in rettilineo, in discesa ne fa 80-90 come fare la curva di trovare a testa a terra. Quindi non è che cambierebbero molto le cose, vorrebbero appesantire di più che altro, basta per mettere un po' il terreno. Quello è già vero, è vero, ma essendo leggero si capotano sì facilmente, quello è già vero. Ho fatto di tutto plastica, non venivo da rifermi, c'è solamente i contorni di fuori, il tuo resto è plastica, il discorso è quello lì. Ti trovi, sei dentro un baule, perché ti arrivano addosso, ti apre in due. Ah, quello è poco ma sicuro, quello Antone, è poco ma sicuro, vero? Sempre scatolette, insomma, è come le AP50, quelle tre ruote, sono scatolette. Non cambia niente. La AP50 lo stesso, io ho visto un sacco di AP50, quando ho avuto un incidente è difficile che uno si sia salvato. Allora quando abbiamo avuto fortuna, sono di subito, è sempre molto dentro, perché quello c'era la mia di bottola, quindi quando addosso qualcuno si piega subito e ti arriva in testa. Beh, sono fatti un avierino molto leggero. È vero, e poi non è che hanno barre in acciaio, barre qua, barre là, sono tutte, è un lamierino che come lo tocchi si piega subito. Volevano fatte pesantite, fatte più in alluminio al limite o ferro, un po' più grosso, così se si è seduto in un baule si è rotto. Sì, è vero, è pericoloso, insomma, è vero. Di quelle ti ricordi le toccavano le AP50, addirittura le facevano le 125, erano urlando, una freccia, eppure vedi, molto molto pericolose. Quindi di una è capotata di quelle, poi era uscita la peccare, quella l'avevano fatta rifrazzata invece, c'aveva i tubi quelli grossi e non succedeva niente, l'ho venduto poco, ho visto, di quelle lì, c'è un po' in giro. Diciamo quelle le ho fatte più per fare tipo motocross, ecco, a beccare, ovvio, diciamo, l'intervenatura in acciaio, capito? Quelle più o meno, diciamo, lì in pista più che altro, dai. Quelle c'erano più rinforzate, c'erano anche impianto stereo adesso, addirittura, vendevano impianto stereo. Sono belline, però sono sempre tenute le ruote, lo sa, mai io voglio andare più di tanto. Vabbè, quello c'è, è vero. Più di col tanto non puoi andare. Purtroppo siamo a casa tra la 50 e c'è poco da maggiorare, portarla a 75, 90, 125, cioè. È tutto a tuo recapito, se ti beccano dice questo al mezzo. E ti beccano, ti trombano. Alla grande pure a te, alla grande, la buffonetici. Purtroppo guarda che ha venduto una moto, non si è maggiorata, sono tutti maggiorati. E poi se vuoi, è un periodo che ci sono posti il blocco, tutta la parte dei vicini urbani, non so niente cosa fare adesso. Prima saltavano al bar, adesso vanno a girare i malandrosi, ogni giorno c'è solo un posto diverso, in tre, in quattro, figurati, lì a fermare macchine e moto. Sono diventati come la polizia, la finanza, i carabinieri, cioè più o meno di bulli che hanno inviato la sopravvita, va. Ah, fa il cazzo, il comune ha bisogno di soldi. Ha bisogno di soldi, ci ha vendato la vecchia. Ma se non me ce ne viene a culo, che arriveremo a... E quello ha bisogno di soldi, come questo casino che c'è adesso, che ha bisogno di là, se deve avere qualcosa da qualche parte di prenderlo. Ah, quello è poco ma sicuro, Quello è poco ma sicuro. Tanto rinnovando però, Ciao, grappa. Lo zio, poi. Così è purtroppo. La parocci. Oi, scura a noi, scura già. Non c'è proprio da fare per niente, ci sta. Io faccio una settimana che sento venuto a darci, ma è preparazione tutti quanti giorni, già una settimana non tiene nulla. Preparazione niente, si sentono due volte da lontano e basta. Ah, quello, l'ho fatto anch'io. E poi calma, c'è. Su questo canale parte, sentivo gli spagnoli. Blu? Cavù, cavù, più zero, La Spagna aveva detto le campioni del mondo. Si è lasciato andare. Già c'era una stamattina di spagnoli. Massima, sì, li sentivo. Evidentemente c'è proprio detto che da una qualche parte. Ma è stato su questo canale? No, sì, su questi canali stamattina c'era l'operazione, adesso è 10:30. Perché se io vado in un'altra città è andata a parcheggiare, se caso, in la rotatoria. Se tu vuoi andare a divertirti, ma se vai che vai dal prodotto il sabato notte, ogni tanto ti porta via qualcuno, qualche palo, qualche segnaletica, oppure se lo trovi nella rotatoria sopra, aspettando che gli porti la giovita. Tu vai il sabato, però che ti diverti, una volta c'era il Milano invece di divertimento, quando non c'era la rotatoria, intanto c'era uno che andava e si ammazzava. È proprio vero, non basta una prudenza, oggi deve avere occhi dappertutto perché non sai mai da che parte ti piombano. E c'è un po' di gente in macchina che non sa neanche guidare lì, è la verità. Il discorso è anche quello, quando lo becco arriva con i motorini, figlia e sembra che sia padrone della strada, ti mettono il cavo in manto. Davvero, guarda, è da paura. Poi c'è che si dormita non l'avete mai visto. Io guarda, sono anni e anni che viaggio, cazzo, però più stiamo andando più niente dormita vengo io. Sì, purtroppo la patente l'ha dato a tutti, mi avete visto il casino che è successo. Tutti quelli che hanno avuto la patente gratis. Quello che è giusto, per me quello è giustissimo. Cazzo, tu puoi dare la patente a una persona che non conosce i segnali, non conosce la strada, non conosce i croci, ma dove sta scritto? La patente bisogna studiarla. Se hanno fatto lo studio, l'hanno fatto per quel motivo lì. E non ti dura, allora, non lo conosci, mi stavo sentendo da poco al telegiornale, date la patente alla di 17 anni addirittura. E sa poco tu. Sì, vabbè, in America la 14, la verità, forse perché capiscono di più. 14 anni rimangono, forse perché studiano di più, non lo so. Comunque sono più prudenti gli americani guidando. Ehi, dipende, vedi, un po'. Ah, c'è la voce di 17 anni, però si chiede, hanno detto, devono fare il primo esame di teoria, accurata. Capite, fanno un esame di teoria accurata e vedono un po' se l'alunno si comporta bene, se no diversità. Io sono andato a scuola, non ho la patente. Quando ho fatto in famiglia, fa l'esame anche per la patente di guida, fa prima. Fa tutti e due. Infatti. Gianni, dove sei arrivato? Ci sono, gloria, adoro, partiria. Dove sei già prodotto adesso? Ti sento passo, Rizzi, non capisco cosa dici. Avanti, Falchetto. Ha detto dove sei arrivato. Io ho detto zona Aria No. Aria Notto? Aria No. Aria Notto? Zona Aria No. Ho copiato. Sta dicendo un po' maluccio però, sta dicendo un po' maluccio. E in che senso maluccio? Che usciva a tratti, più che altro. Quando c'è di zona avviato. Vedrai che la cosa è tutta buona. che va su per l'Omni, si è protetto qua. Quella proprio va via di lunghi 2,75 metri, c'è una bobina, è bella tettera, quell'antenna. Costa lo stesso prezzo della Mantova, viene. E c'è lo stesso guadagno. Capogare, sono buone antenne quelle. Sono buone antenne. Attenzione, Fortento, dimmi se il segnale si è guadagnato da questa zona. Un po' ha guadagnato, sì. Un po', devo dire che ha guadagnato. Un bello poco guadagno, aspetta, che vado nella punta a vedere se va meglio. Solitamente da qua mi ascoltano tutti 9.10, 9.20. K. Guarda, adesso sono nella punta, quasi nella punta superiore della montagna, il segnale ci guadagna. Per me il segnale qua è 8, E allora ti danno dritta l'antenna. Non lo so. Mi pare certo da me, perché almeno che ci siamo disastrati questi 2 giorni, da parecchio. È sempre 8, sì. Io vedi arrivo quelle coordinate. Aspetta che guardo, come finisce la curva, vai. Vedo un po'. 1-2, 1-2. Tu sei 5 qua. Allora vedi. Così che non è falso lo smitter qua, Lo sai cosa c'è? Che probabilmente questa zona non è favorevole alla tua. Tu hai la zona dei paesi più favorevole. Prima il dovere, poi il piacere. Io ho la tubo di lavoro, se sei stato un po' di camera senza nulla, boh, e col tempo che poi stiamo uscendo. Non una volta col tempo da allora. Cazzo, ne amo, boh. Parlando del più del meno, ma detto io sono anche dentro un fosso, è un passato ho immigrato lì invece, diciamo. Ma io stavo parlando di un fosso, infatti un po' la popolazione andava e veniva, no? Poi ci siamo salutati e niente. Dice che la mia radio era stupenda, era pulitissima, è come che stavo parlando a fianco a lui. Io ho bene, raga. Ma penso che c'è buono a me. Tu a coso arrivi molto forte, qua alla corte, a Bosa Marina, è che non ci sono più CBs da quelle parti, se no, però se senti qualcuno che sta andando in macchina, la voglia che l'accompagni sia la Bosa, Bosa è un fosso me. La voglia che l'accompagni lì, c'è la guardia odiera molto aperta, ce l'hai in pieno, tutto quanto lo vessi molto, molto aperto per la Spagna. L'altro giorno c'era io un camionista, come ci sentiamo ogni mattina, a non sa dove abbiamo sentito male, prova a dominare. Ma com'è? Numero. Sono tutti positivi per te. E, ti vedo, muore, se avete rimane perfetto. Allora, ti vedo, muore, se già, beh, lì arriva perfetto. Lui mi ha sentito, ma com'è? Ma com'è? Mi lontano. No, ma come ci arrivo anch'io da qua? Mi ha detto Luigi, Vulcano, mi sento ma com'è? No, un giorno. Figurati. Non mi sento la già ve l'ho sentito io un giorno. Che stava rientrando sul 45. Comunque, cioè per quello che ci vuole, c'è il canale, non è che lo piglio in pieno, però lo piglio sul lato opposto io, capito? Tu sei proprio diretto, io ce lo piglio sul lato opposto. E sono aperto per certo Sardegna, tu invece vedi da casa tua, vedi tutto il Monte Santo, vedi, quindi vedi, c'è tutto aperto per te come la 131. Ce l'hai in pieno, ce l'hai. Posso dire che le soddisfazioni di stare con questa antenna, ma in poche antenne mi hanno dato su queste soddisfazioni qua. Mi ha dato soddisfazione anche 27 L, mi ha dato soddisfazione anche la Firenze 2 quando lo usavo, che pesava 4,5 kg. Poi la Mantova C, ho avuto la 1. Piazzata viene questo colpo di vento prima dall'antenna, allora dalla 1 sono passato alla 5, poi dalla 5 alla turbo, perché la 5 non si poteva utilizzare qua, pigliava tanti di quei colpi del calice dell'Ener che ci abbiamo vicino, stavo pigliando il cavo e lo buttavo dalla finestra, allora ho preso la turbo e la turbo mi ha dimezzato un po' i problemi, non molto ma già mi ha dimezzati, e poi una volta tutta la Mantova non ci ha volato la notte e ci ho messo questa. Però io mi ricordo che questo punto dove l'ho pensato con io adesso. Quando c'avevo la vado la turbo sotto, c'avevo pensato la superregibus in questo lato qui, dove c'è il camionetto. E sentivo la zona del centro Sardegna pulita senza un filo di QRM, figurati. Senza problemi di calici. E sentivo proprio che siete puliti puliti. Guarda, dipende sempre dalla posizione, vabbè, tu c'hai del problema di quei pali alta, dei tradici a tensione lì è un casino, per le antenne. È vero, è vero. Però tu sei in una buona zona, capito? È una bella zona quella, come quella zona di Claudio stesso, è una bella zona. E Claudio ha fatto, Claudio ci ha fatto fatto, non si arriva a 9,20 mi pare, ci avrebbe segnalato di Claudio da lì su, anche lui poi c'è problemi italici come ce li ho io, tale uguale, perché lui anzi ci avviciva a che cosa, di quella capote c'era una specie di cosa dell'era di trasformazione che tu quanto esterno, capito? Qui la voglia scarica in chivi, mi ha dato anche fulmine in vara. Cazzo te, calma, calma. Ah, bello, bello. Bello conoscerti dappertutto. È bello. Ma piano, passo la volta, vedrai che la cosa migliora sempre di più. beh, quello sì. Adesso sto capendo a me, appena comincia dopo agosto, cominciano i primi temporali estivi, tappati per i fumi. Ho detto ieri, 1500 soli, solo in Europa sono volati in Alta Italia. Il giorno prima non mi ricordo dove, 15.000, una cosa voglio dire, rifiutati uno ogni secondo di fulmine è sceso, ma proprio altro di caduti, non che li vedi così, caduti proprio. Mamma mia, e le trombe d'aria, come hai visto le due trombe d'aria? Mamma mia. Una trombe d'aria in mare anche, ma insomma hai visto una cosa del genere, stiamo arrivando a livelli ricosami, dove è tornato le cose qui in Italia. Perché sta cambiando tutto il clima, è un casino. Sì, l'aria calda e l'aria fredda di corpo, formano quei casini. Ehi, va bene, dai. Comunque, Popo, già, ti posso sapere per quanto l'antenna, dai, così... Niente, lo vediamo adesso provamente, ma se vedo che non me la segnale, non me la niente, tieni pronto sabato che viene che lo facciamo, e non mi prende impegni. Vieni, è tranquillo, già sono qui, se vuoi andare a pigliare la compara dopo, e poi se hai problemi passi 15 minuti te la piazza, se non ti piazzate tante cose, aspettate dal campo, lo fai per lanciare un campo e la provi, e poi pronto a pezzare sotto al tetto. Ehi, adesso vediamo, se trovo 10 minuti liberi, vado, la prendo, e poi vediamo, al limite ti faccio un colpo al baracchino, se ci sei, e così, la piazziamo, Sì, io sono l'ascolto, non preoccuparti per quello, ti ascolto qua sul 16. Kappa, bene, allora, dai. Ok, a più dopo che stavo vedendo gli ospiti. Ci sentiamo dopo, dai, d'accordo? Io d'accordo, ci sentiamo dopo là. Ehi, ciao.